Per quanto si parli spesso di prove e tentazioni, è sempre utile prendere in esame in modo specifico questo argomento. Prendiamo lo spunto delle nostre riflessioni dalla lettera di Giacomo. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti liberamente senza rimproverare, e gli sarà data. 1.15. Qui siamo di fronte ad un'affermazione certamente singolare e impegnativa da parte nostra, ma che ha bisogno di essere spiegata, e la spiegazione di questa affermazione noi la troviamo nel corso della lettera. Una cosa è certa, la parola di Dio non ci propone delle mete irraggiungibili, ma sempre obiettivi di carattere pratico e realizzabili. Quindi consideriamo un atteggiamento di allegrezza come un qualche cosa che non porta né alla disperazione né all'indifferenza, ma è un sentimento intenso che ci coinvolge positivamente. Teniamo presente questo aspetto per tutto il corso delle nostre riflessioni. Per avere un'idea esatta di quello che l'autore vuole dire, dobbiamo avere anche un'idea esatta di che cosa siano le prove e le tentazioni menzionate in questa lettera. Leggiamo dai versetti 13 a 15: nessuno, quando è tentato, dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Può capitare l'idea che ci facciamo delle prove e della tentazione sia un pochino confusa, e che non abbiamo visioni chiare su quali sono gli ambiti di applicazione di questi due termini, tanto è vero che possiamo a volte considerarli interscambiabili. A volte affermiamo con imprecisione: il Signore mi ha mandato una tentazione. Giacomo afferma però che Dio non tenta, perciò per cercare di capire un pochino meglio l'ambito di applicazione dei due termini, occorre vedere il testo greco dal quale è tradotta questa lettera. Il termine dal quale traduciamo prova e tentazioni in greco è identico e apparentemente anche qui non abbiamo un ausilio, ma se noi andiamo invece a considerare il verbo greco dal quale deriva questo sostantivo, vediamo che esso dal punto di vista grammaticale ha due possibilità di costruzioni diverse. Si può costruire al caso genitivo, dandogli un significato di mettere alla prova, saggiare, sperimentare, e all'accusativo, dove assumerebbe il senso di rompere, cercare di corrompere, cercare di distruggere. Quindi sono due significati diversi. A questo punto, avendo presente questa distinzione, è ben chiaro che Dio nel metterci alla prova non abbia in mente il secondo significato, ossia di corromperci, di distruggerci, bensì il primo, cioè di sperimentarci, di saggiarsi. D'altronde si comprende anche se consideriamo il testo appena letto considerandone il risultato. La prova conduce alla corona di vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano, mentre l'excursus della tentazione dettata dalla concupiscenza, la quale concepisce e partorisce il peccato, alla fine produce la morte. Quindi sono due risultati antitetici. Il fine immediato di Dio è quello di renderci approvato, mentre il risultato della tentazione è la separazione da Dio. Perciò, quello che dobbiamo tenere in considerazione è che Dio, quando ci prova, è perché ci vuole renderci approvati. Cosa vuol dire approvato? In greco questo termine ha significati quali esaminare, saggiare, ammettere, giudicare capace, giudicare idoneo, lodare. Quindi il fatto che Dio ci prova per renderci approvati introduce uno stravolgimento nella nostra considerazione proprio in relazione all'esame, alla prova, alle prove svariate in cui ci veniamo a trovare. Quando consideriamo l'esame, la prova umana, come per esempio l'esaminatore che può essere il maestro, il professore, chi giudica la nostra idoneità alla patente. In questo caso la prova serve in primo luogo a chi esamina, perché deve avere una conoscenza sufficiente alla fine di dare un giudizio sull'esaminato. Nel caso di Dio invece la cosa è diversa proprio in relazione a questo approvato. Dio non ha bisogno della prova per conoscere il nostro cuore, perciò la prova serve a noi, non a Dio. Serve a noi qualunque ne sia il risultato, sia nel caso negativo perché il fatto ci mette in allarme e possiamo prendere i rimedi opportuni, sia nel positivo perché in questo caso abbiamo raggiunto un gradino ulteriore nel cammino della santificazione e abbiamo la possibilità di inquadrare altre mete. Quindi dobbiamo tenere sempre in mente che il fine di Dio nel provarci è di farci sempre e comunque del bene, quello di giudicarci capaci, quello di... Per Dio la prova ha sempre un fine positivo. È solo ai nostri occhi che essa appare, a volte positiva e a volte negativa, ma stiamo dando un giudizio diverso da quello di Dio e dobbiamo perciò tenere in considerazione quello che Dio si propone nel provarci. Abbiamo esaminato che cosa è in pratica la prova, abbiamo visto che la prova si differenzia dalla tentazione perché è volta ad una fine positivo comunque, mentre la tentazione è sempre rivolta comunque ad un fine negativo, che è quello di distruggerci, di corromperci, di portarci al peccato, di portarci alla morte. Per tornare ai versetti iniziali che abbiamo letto, cioè di considerare come argomento di completa allegrezza le prove svariate, rimane ora da chiarire quale debba essere il nostro atteggiamento nei confronti della prova. Cioè, dopo aver capito cosa essa rappresenti e quale ne sia il fine, dobbiamo cercare di capire in che modo la possiamo vivere, poiché l'autore ci invita a considerare la prova come argomento di completa allegrezza. Se andiamo al capitolo 5 della stessa lettera di Giacomo, al versetto 11, noi vediamo che l'autore chiama beati quelli che hanno sofferto con costanza. Quindi, colui che viene provato, colui che viene messo in una situazione di sofferenza, deve comportarsi in questa circostanza e condizione con costanza. Cosa vuol dire avere costanza? Il termine costanza deriva da un verbo che in greco più o meno significa aspettare, attendere, e dal quale sono derivati i verbi tollerare, sopportare, sostenere, e dall'idea di qualcuno che sopporta perché aspetta, qualcuno che tollera, che sostiene una determinata situazione non così alla cieca, ma perché ha un'attesa, ha un qualcosa davanti, ha una meta. Chi ha costanza tiene questo atteggiamento perché esiste un qualche cosa che è la ragione giustificatrice del suo sopportare e del suo tollerare. Si tratta di colui che vive una determinata situazione senza rassegnazione. Ecco perché la costanza è una virtù cristiana, perché per nostra natura non siamo capaci di portare avanti una situazione inaccettabile, ma con una visione divina è possibile soffrire senza rassegnarsi. Paolo ha riassunto il tutto in poche righe. Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti ma non distrutti. 2 Corinzi 4.8-9. Prendiamo in esame l'altra parte del versetto. Ci siamo fermati a coloro che hanno sofferto con costanza. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Questa descrizione di gioioso in relazione a Giobbe sostiene e conforta ancora di più questa interpretazione. Perché l'autore qui ha preso come esempio Giobbe e non Abramo? Possiamo dire che Abramo è stato provato quando gli è stato chiesto di portare suo figlio, sì. E è stato provato, lo dice la Bibbia, è stata provata la fede, vero? Però in questo caso specifico, riguardante le prove svariate che l'autore ha preso come argomento della sua lettera, egli non prende a esempio Abramo, ma Giobbe. Perché? Abramo aveva ricevuto una promessa relativa al figlio e conseguentemente ha esercitato la fede nella prova, secondo quanto è affermato espressamente nella lettera agli Ebrei. Era tanto convinto che Dio era potente da risuscitargli il figlio. Ma nella nostra vita di cristiani la condizione è più vicina a quella di Giobbe che non a quella di Abramo, tranne in quei casi particolari dove Dio ci parla e noi dobbiamo agire di conseguenza. Giobbe si è trovato di fronte a determinate vicissitudini, a determinate traversie, e per questo l'autore prende l'esempio di Giobbe, perché è il più vicino a noi per condizione ed esperienza di vita. Come Giobbe, in ogni momento noi possiamo trovarci in situazioni molto difficili. Considerare questa realtà mostra proprio il preciso significato di costanza al quale ci stiamo riferendo, e inoltre fa luce sulla motivazione che spinge l'autore a ricordarci proprio dell'atteggiamento di Giobbe durante questa prova. In tutto il libro di Giobbe emerge un uomo con tutti i suoi errori, con tutti i suoi limiti tipicamente umani, in alcuni momenti addirittura con quel suo atteggiamento quasi ardito nei confronti di Dio, ma che comunque ha mostrato una cosa: di non rassegnarsi. Giobbe non si è rassegnato. Teniamo presenti i limiti di quest'uomo, che gli sono anche stati denunciati nella parola di Dio, però in tutto in questo excursus, in tutta questa sua vicissitudine, Giobbe non si è rassegnato, ma ha cercato, ha scavato finché non ha sentito la voce di Dio. In sostanza, Giobbe è uno che è rimasto in attesa. Dopo aver letto il libro di Giobbe e averlo confrontato con le dichiarazioni di Giacomo, è evidente che ci è qualcosa da emulare, come qualcosa da prendere da esempio. Nel leggere il libro di Giobbe, verrebbe da chiedersi cosa prendere come esempio da questo uomo che alla fine viene quasi rimproverato da Dio. Ma alla luce di queste riflessioni si comprende che l'impronta lasciata da quest'uomo non sia determinata tanto dalle sue affermazioni, perché se andiamo a leggere nei suoi discorsi quante imprecisioni, quanti errori anche dal punto di vista morale e teologico ha commesso, in quante occasioni ha fatto mostra di cadere preda della presunzione tipica della natura umana. Eppure l'esempio di Giobbe è nel suo perseverare nell'attesa di ricevere. Nel suo insieme l'atteggiamento di Giobbe è l'atteggiamento di colui che di fronte ad una data situazione non si è rassegnato, ma ha cercato, ha scavato, si è consultato, ha gridato, finché è arrivata la voce dell'Eterno. E da tenere presente che questa voce non gli ha motivato la ragione del suo operato. Giobbe non è stato esaudito sotto questo aspetto. Non gli è stato rivelato il perché delle sue sofferenze o perché è stato posto in quella determinata situazione. Però, alla fine, dopo aver udito la voce di Dio, la vita di Giobbe ha subito un cambiamento totale. Quindi, l'episodio di Giobbe rivela molto circa la costanza, perché fa pensare che noi ora, grazie all'esperienza di quest'uomo, abbiamo una speranza, un qualcosa a cui aggrapparci. Infatti Giacomo precisa: avete veduto la fine riservatagli dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Abbiamo qualche cosa di concreto al quale rifarci. E per fare un'applicazione di tutto questo, è possibile affermare che in ogni momento della loro esistenza Dio chiama i suoi figli a non tirare i remi in barca, cioè a non comportarsi con rassegnazione, ma a cercare di porsi in una visione dinamica nella vita cristiana. Purtroppo molti credenti possono fare una certa abitudine alla sofferenza. E per quanto vero che la chiamata del cristiano è una chiamata alla sofferenza, il rischio è quello di fare della sofferenza un'esperienza cieca della loro vita, un'esperienza che tutto sommato non arricchisce, lasciando così le cose come sono e pensando che il soffrire sia come qualche cosa di normale, ragionando nello stesso modo degli increduli, per cui oggi capita una cosa, domani ne capita un'altra, tiriamo avanti, tiriamo innanzi. Questa è la risposta dei più quando si chiede anche formalmente come vanno le cose, ma chi ha posto fede in Cristo è stimolato a vedere un po' oltre, ad avere una visione proiettata più avanti, cioè a non limitarsi al fatto negativo, perché il fatto negativo è transitorio, ma ad avere una visione che va al di là, finalizzata ad uno scopo ulteriore. Questo ci permette di sostenere una prova e ci permette di considerarla come un argomento di completa allegrezza. Altrimenti, non vagliando la prova sotto questo aspetto, il discorso o è masochista o è un discorso stolto, perché non ha alcuna applicazione pratica. Non si può chiedere a un uomo di considerare la sofferenza come argomento di completa allegrezza, se non in questi termini. È vero che a volte la prova può portare a momenti di confusione e di smarrimento, perché come è scritto, Eccitasa, lo scettro dell'empietà non riposerà per sempre sull'eredità dei giusti, perché i giusti non stendano le loro mani a compiere il male. Salmo 125.3. E su questa promessa il credente deve considerare le sue situazioni senza via di uscita, ma occorre tenere presente che non a caso Giacomo dica nella sua lettera: se alcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che la dona a tutti liberamente. Giacomo ha messo in evidenza questa promessa proprio nel contesto in relazione alla prova. Perché dobbiamo considerare come argomento di completa allegrezza tutte le prove svariate? E cioè, se qualcuno si trova in uno stato di confusione, se si trova smarrito e ha perso il senso dell'orientamento, chieda la sapienza a Dio che a tutti dona liberamente. Dobbiamo leggere questo in ciò che afferma Giacomo, perché ci è una logicità, una continuità in questo discorso. Non si tratta di frasi sparate lì a caso, proprio per il tema che Giacomo si è proposto di trattare. Tra la sofferenza e il chiedere a Dio sapienza, dobbiamo vedere una logica conseguenza, un discorso ragionato e non disconnesso. Come non è a caso che Giacomo abbia dipinto, nella parte finale della lettera, il ritratto di una chiesa vivente a vita cristiana con dinamismo. Ci è qualcuno che soffre, preghi. Ci è qualcuno di animo lieto, salmeggi. Ci è qualcuno infermo, chiami gli anziani della chiesa. Confessate i falli gli uni agli altri. In questi ordini di Giacomo ci è l'idea di una chiesa che vive le prove in maniera dinamica, in maniera viva, dove gli uni sono di aiuto agli altri, dove vi è un fratello che può avere una visione da parte di Dio rispetto alla situazione di un altro e quindi lo può aiutare, lo può consigliare, dove ci sono dei fratelli che confessano i peccati gli uni con gli altri, perché il peccato è di intoppo e può essere causa di una sofferenza fisica e psichica. Non è a caso che Giacomo abbia messo proprio nella parte finale della lettera, dopo aver trattato tutte queste verità, questo quadro di comunità, egli ci ha dato un esempio, un'indicazione di quelli che devono essere i nostri comportamenti, le nostre reazioni. Una comunità che si lascia sopraffare da prove interne o un figlio di Dio che cede in situazioni sfavorevoli hanno in comune una cosa: la mancanza di costanza e l'obiettivo di arrivare al traguardo vittoriosi. Non a caso l'autore della lettera agli Ebrei presenta ai suoi lettori un solo obiettivo: corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ebrei 12.14. Che la nostra vita non sia un guazzabuglio di vicende che noi prendiamo in modo passivo, senza adottare quei criteri che dovrebbero regolare la vita cristiana. Dobbiamo considerare la sofferenza come una cosa normale, ma essa è pur sempre una sfida per non comportarci con indifferenza e indifferentemente nei suoi confronti, e tenere presente che il Dio Trino ha sempre e comunque una qualche benedizione per noi, e per considerare una grande gioia trovarsi di fronte a prove di vario genere. Ottobre 2006. Ellero.